Benvenuti tutti quanti, buonasera, grazie al Focolar Furlan con il quale organizziamo da parecchio tempo iniziative e soprattutto da alcuni anni custodiamo la biblioteca che a suo tempo era presso la sede dell'associazione ma che nel tempo divenuta grande e volendola gestire in maniera tale anche da permettere non solo ai soci ma anche ad altre persone di conoscere la cultura che sta dietro a tutta questa associazione e a questo popolo, si è deciso di fare una collaborazione e quindi di prendere in carico i libri, catalogarli, metterli nel nostro catalogo sulla pagina web e poi periodicamente incrementarla con quelli che sono gli acquisti o il materiale che proviene dall'associazione. È stata una felice esperienza, lo è tuttora, tant'è vero che l'abbiamo presa a modello anche per altre iniziative con altre associazioni e sta dando i suoi frutti. Abbiamo parecchie persone che vengono anche a consultare questi libri e c'è un grande interesse in queste forme di cooperazione. E poi chiaramente anche la parte più piacevole è quella dei contatti umani, è quella di potersi trovare ogni tanto e organizzare qualcosa insieme. È stato la volta precedente quando abbiamo partecipato e abbiamo potuto vedere l'iniziativa della lettura nella sala del comune di Bolzano, nella sala di rappresentanza del libro di Renato Sclaunic, sempre accompagnato da Parmigiani, vero? Con la fisarmonica, tant'è vero che abbiamo chiesto poi di poterla ripetere anche presso la nostra sede, qui in biblioteca, in un periodo successivo. E così è stato, e infatti vi ringrazio anche per la vostra disponibilità. Siamo contenti di poter così organizzare queste iniziative. La biblioteca durante la settimana, ecco, cerca sempre di trovare dei momenti e delle occasioni nuove per raccogliere, per invitare le persone e dare delle motivazioni sempre nuove affinché si possa conoscere questa biblioteca. Mi permetto di segnalarvi che noi ogni volta lasciamo sulla sedia un volantino illustrativo dei nostri servizi e un modulo di iscrizione che è totalmente gratuito, basta compilarlo e consegnarlo. Lo facciamo perché questo è un servizio pubblico che va promosso anche grazie a voi e va promosso, va fatto conoscere e nella convinzione che più si conoscono, più si leggono, più ci si incontra anche nelle biblioteche e più si hanno delle occasioni per sviluppare un proprio percorso, un proprio pensiero libero e di informarsi nei confronti di quella che è la realtà che ci circonda e conoscere anche cose nuove e quindi affrontare cambiamenti in maniera più assertiva, diciamo così, nella vita c'è sempre bisogno. E anche la poesia ha un ruolo determinante, la poesia è un modo di esprimere sentimenti, sensazioni e anche trasmettere informazioni molto particolare, quasi metaforico direi, ed è molto sottile, non è da tutti, però una volta che si entra in questo meccanismo non se ne riesce più a fare meno. Ecco. Ed è veramente interessante anche entrare in contatto con chi la poesia riesce a scriverla, perché le sensazioni e le parole che vengono usate dalle persone che compongono poesie sono sempre molto particolari e di grande stimolo. Bene, una cosa che volevo segnalarvi sono le cartoline anche che lasciamo. Le prossime iniziative saranno la presentazione di un libro di una signora di Bolzano, di un romanzo. Poi volevo segnalarvi, visto anche la contiguità geografica e storica, la proiezione di un filmato che avverrà il giorno 28 febbraio alle ore 17, questa volta qui in biblioteca. È un documentario sulle foibe, il dramma dei deportati e scomparsi sul confine orientale d'Italia. Anche questa è un'iniziativa che facciamo in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ecco, ogni anno abbiamo delle iniziative in occasione della giornata della memoria e delle iniziative in occasione della giornata del ricordo che cade il 10 febbraio, era di domenica anche questa quest'anno, quindi abbiamo gioco forza posticipato in una giornata dove potevamo garantire a più persone di partecipare a questa iniziativa. E infine segnalo due nuovi servizi: la biblioteca da dicembre agli iscritti dà una password per accedere a una una banca dati anche da casa sul proprio iPhone o sul proprio computer in qualunque momento della giornata, anche di notte, a 1900 riviste in 50 più lingue. Quindi se avete piacere e interesse di consultare queste riviste basta iscriversi alla biblioteca e inoltre abbiamo attivato un servizio di wireless per cui chi viene qui durante il nostro orario di apertura può usare i propri sistemi senza dover avere una SIM o altre cose, insomma, va bene? Ecco, questo perché finiremo nel polo e ci stiamo lentamente, ecco, nel nostro piccolo adeguando a tutta una serie di sistemi innovativi che però non ci fanno perdere di vista le cose più concrete, più delicate, più profonde, come appunto è la nostra serata. E quindi cedo la parola ai nostri grazie. Ospiti, che ringrazio ancora anche a nome dell'assessore Tomasini. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Un ringraziamento doveroso alla Biblioteca Claudia Augusta, alla direttrice, tutto il personale e poi anche a Focolar Furlan, che è un po' la nostra mascotte di noi artisti, che ci protegge, che ci porta in giro. Ecco. Le poesie che voglio presentarvi stasera sono poesie sia in friulano sia in italiano, anche perché volevo leggervi queste tre righe che ci sono alla fine del libro, che è una piccola intervista, no? Che dice: ho comperato il mio primo Zingarelli a 22 anni, l'italiano è la mia seconda lingua, più o meno parlo una specie di friulano tradotto in una forma sgrammaticata e buffa di italiano. Il contadino che parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua realtà, scriveva Pasolini nel 51 in dialetto e poesia popolare. Allora, mi sembra doveroso ma anche bello partire da quelle che sono le mie radici, partire da questa lingua che a mio avviso è molto musicale, molto calda, però... ecco, però prima di iniziare con le poesie c'è un brano molto bello. Sinara massis, sgrafata e requars, voi adicierai voi e di sinti odor di ciampo, pensis cence casa, canadin talayer e sirium non dulas peglasi. Ne ricordi, trascinare ramaglie, rovistare nel passato, voglia di chiudere gli occhi e di sentire odore di campo. Pensieri senza casa che nuotano nell'aria, cercano un nome dove specchiarsi. Usniot, flamisca si jemplin, di immens come stelis cacolin in avost. Questa sera, fiamme che si riempiono di immenso, come stelle che cadono ad agosto. In parfums di vegle si fa sclar i zirassiosi slargin dal jump le team di tornà al mattino presto il giallo del frumento si perde intorno alla luna nei pascoli delle oche crescono profumi di veglia si fa chiaro e i girasoli si aprono nel campo è tempo di ritornare. Soffre di dolore, tali spesis di una giornata stranca. Mi dismuovi tal scur, parzora e scus di blava, la zulugna non da voi a di ciacarà. Inverno, il giunco chiude le mani, un soffio di dolore nelle fessure di una giornata stanca. Mi sveglio al buio sopra le foglie secche di gran turco, la brina non ha voglia di parlare. Di là dal scur, si sveglia la gnot, torgula, dagli bocciatis dei giassi in amor. Squindisi dal fen, fa fenta di sualà, mostrai d'inch. Du la scomensa la parte dura dei claps. La rasa non becca i des, non dà pensier strams. La tomusa si plata dall'ombrena di un seglot. Al di là del buio, si sveglia la notte, torbida degli schiamazzi dei gatti in amore, nascondersi nel fieno, far finta di nuotare, mostrare i denti. Dove inizia la partitura dei sassi? L'anatra non becca le dita, non ha pensieri strani. Il tuo viso si nasconde nell'ombra di un secchio. Chamina Planck, il soffli da vos, le toront, da di celeste di Blanc misclissas. Chamina Planck, in miesa e baras, corri da ora gli olmis di un fasan, fin d'ongia al ciam di blava, fermiti e spieta. Cammina piano, il soffio della voce rotondo, sa di celeste e di bianco mescolati. Camminare piano, in mezzo ai rovi, inseguire le orme di un fagiano, fino accanto al campo di grano turco, Fermati e aspetta. Salvadis, caspietin all'imbrunì, l'agnotto al fug battipis, tox disiuns, inclaudasta l'inulassis, surisca corin velocis testerbs, lagrimis safoiadis sistrassin in talabuera, quan tornarai a nasi. Canti randagi, che aspettano l'imbrunire, la notte attorno al fuoco batte i piedi, pezzi di sogni inchiodati sulle nuvole, topi che corrono veloci nei cespugli, lacrime soffocate si trascinano nel vento, quando ritornerò a nascere. Lassi quella ploia, paraulis da sudis, boci strachis cassunin di blanc, mangias ariesis quella scusa, remenassi talaciar, muri partè. Desiderio, dondolarsi con la pioggia, parole taciute, bocche stanche che suonano di bianco, mangiare ciliegie con la buccia, rivoltarsi nella carne, morire partè. Cercia il sil con la boccia, soffla flamis, sbrisada e rapars, tremà di maravè dinanto una ghialine cadisco codè, al cura al batfuart, quanca il viod la moart, che si plata dai cianus plens di sinisa. Sentirsi, assaggiare il cielo con la bocca, soffiare fiamme, scivolare dagli argini, tremare di meraviglia davanti a una gallina che fa cocodè. Il cuore batte forte quando vede la morte che si nasconde nei campi pieni di cenere. Adesso per concludere questa prima parte di testo in friulano vorrei leggervi una poesia a me particolarmente cara che si chiama Balot Crot, che tradotto in italiano vuol dire sasso nudo, ed è un testo che ho scritto per Pasolini e che parla degli ultimi momenti di vita, è interessante, non dico altro, anche forse qualcosa di più che interessante. Tieto chat ancia chest, Pierre, Pierre, Piera senza canton, balot crot, ancia che stito chat, d'un viar, d'un plazzal plen di polvar, di boston sleas male di miseria, miesa la gloria e amaglis di Welling Sant. Non son più falisci stai voi a savor da veretat, iarbe, iarbe garbe, iarbe di chant, iarbe selvadie. Sasso nudo, ti è accaduto anche questo. Pietra, pietra, pietra, senza angolo, sasso nudo. Anche questo ti è accaduto, d'inverno, in un piazzale pieno di polvere, di bastoni legati male e di miseria, in mezzo alla ghiaia e a macchie di olio santo. Non ci sono più scintille negli occhi il sapore della verità. Erba, erba acerba, erba di campo, erba selvatica. Adesso mi viene da dire che tutte le poesie parlano di chi le scrive e che nessuna poesia parla di chi le scrive, no? Questo per essere un po' velati. Questo testo si chiama Brezza. Sibilo delicato, soffio avido di sole, chiasso, ardita gioventù, mucchio di stracci strappati, segni, carne livida che ti fissa, voce che non mente, oracolo. Il cielo è gonfio, odore di tutto. La poesia che segue è un'immagine, una delle tante immagini in italiano, però sempre del Friuli. È l'immagine di un vigneto, di un vigneto in autunno, e di uno spaventapasseri, di quello che succede con le cornacchie. Brilla nell'aria un tintinnio di sonagli. Lo spaventapasseri sbuffa sotto il giogo delle cornacchie. Debole e triste, ove cantano i galli e le ombre riposano sotto un raggio di luna. Popolare, la dimensione delle feste di paese. Le scarpe inzuppate di ieri, velleità d'uomo non rimpiansi, la vigilia alla festa, un sorriso arruffato. Hai del tabacco, fratello? mano su mano, ritorna senza voce, la stessa notte di ogni notte. Epigramma. Ho sentito goccia dopo goccia uno schianto infuriarsi e percuotermi a me, voracemente, con voracità. Goccia dopo goccia ho sentito le mie labbra piangere. Divenire è un testo che ho scritto per un amico pittore che è anche poeta, che non c'è più, che però per me è stato un po' come un padre, mi ha invogliato a scrivere, credeva molto nei miei versi, mi invogliava a continuare. Cado silenzioso, fra nuvole celesti, sento emozioni veloci sorridere, soffici, delicate, impercettibili carezze mi ristorano. Cado insieme alla pioggia che il cielo semina su di noi, riverso dall'impeto, prosciugato e stanco di respirare il tempo, abbandono la conoscenza e cado. Giorno. Ho vissuto nudo, camminando sui lembi d'acqua di uno stagno. Ecco, mi viene da chiudere questo set di poesie con un testo dedicato a Dietrich Bonhoeffer, teologo della resurrezione, e mi sembra molto bello. Ecco, il titolo si chiama Sequela. Alla fine del viaggio ogni veste è tolta, ai piedi delle messi pioggia ancora riappare. Adesso però per chiudere leggo l'ultima poesia del libro, che è un testamento, ma è un testamento metaforico perché parla di vita, parla di voglia di vivere, ed è il testamento di un Chan. Sentazzo tu morar, covier di polvar, spuzzi di flum, seduto sotto un gelso, coperto di polvere, puzzo di fiume. Maestro Paolo Parmigiano. Okay. noi siamo qua ancora 5 minuti, se qualcuno vuole chiedere qualcosa di poesia o qualcosa di musica, siamo qua volentieri. Io volevo chiedere queste poesie in che arco di tempo sono state scritte, se sono tutte concentrate o se si dispergono negli anni. Allora, queste poesie sono la selezione di tante poesie, di tante poesie raccolte in tanti anni, circa 20 anni, ecco, che poi sono apparse su riviste, piccole antologie e altre pubblicazioni varie. Poi per vari motivi il libro veniva sempre rimandato, però il materiale veniva anche selezionato, e quindi alla fine siamo arrivati insomma su un centinaio di poesie più o meno, ecco. Alcune poesie lei le ha presentate in un certo senso, sì, sì, sì. Ma molte altre no. No. E dir la verità, io non so, sarò ignorante, ma tante faccio fatica. Secondo me, se ci fosse una presentazione ognuna... Sono d'accordo. Perché si fa fatica a capire. Sono d'accordo con lei. E che dopo magari ci si preoccupa per chi ascolta, che non diventi una cosa troppo pesante, no? Se devo presentare e parlare per 20 poesie, oltre che a leggerle, non so se amate così tanto la poesia da volervi dedicare... Ma basterebbero poche parole... Sì, sì, è vero, delle immagini, sì. Delle immagini per inquadrare meglio, sì. No? È un'idea, io su alcune le faccio, su alcune no, per variare un po' anche, ecco. Io mi stavo chiedendo in questo momento, da quanto mi risulta questo bilinguismo mi affascina molto. Potremmo proporlo sì, di adottarlo in Alto Adige. È una realtà che sembra lontana e poi in conclusione si sente vicina. E mi stavo chiedendo, da quello che io ho colto, un poeta, in questo caso proprio stasera si è sentito, presenta la sua stessa vita e la depone davanti a delle persone che magari non conosce molto bene. E poi Paolo insieme è entrato in dialogo insieme al poeta. Ecco, io mi stavo chiedendo cosa si prova a condividere con persone che siamo qua, ognuna che proviene da mondi, da storie diverse, questo pezzettino di cuore, certo, profondo. Che si è colto, che si tocca con mano. Ecco, questo era il mio. Beh, io dico una cosa intanto: non è che mi vada di andare sempre in tutti i posti dove mi chiamano a leggere le poesie. Qua mi interessava, ero felice di venire, quindi siamo venuti, ecco. Perché effettivamente è vero, è aprire delle finestre, aprire delle porte dell'anima che non sono così facili da aprire e da mantenere anche davanti a della gente che in maggioranza non si conosce. Io ringrazio personalmente quelli che sono venuti a fare il tifo, e guai se non ci fossero. Però effettivamente c'è uno scarto, no? C'è uno scarto che crea anche un impasse, che crea un po' un blocco emozionale, se vogliamo. Però poi penso che siamo riusciti abbastanza a raccontare la dimensione popolare, ma popolare nel senso più bello possibile, rurale, ecco, la dimensione rurale che non è, che è nazionale, mi permetto di dire, nazionale, e si possono trovare dentro diversi elementi che non sono solo trentini, che non sono solo veneti, che sono friulani, che sono emiliani, che sono piemontesi, toscani, e scendiamo giù, insomma. E questo mi sembrava molto bello, soffermarsi su questo un po' è, ovviamente è l'humus all'interno del quale io sono cresciuto. Se crescevo in Parigi piuttosto che, non so, un'altra città, probabilmente non sapevo che cosa vuol dire andare in giro scalzi. Per me è un gran privilegio sapere cosa vuol dire andare in giro scalzi, oppure arrampicarsi e prendere ciliegie, piuttosto che rubare le prugne sulle cose della casa di quell'altro che c'aveva gli alberi di prugne, insomma, cose del genere. Ecco, tutto questo ho cercato poi di trasportarlo in poesia, no? Dandogli alzando il livello, che non sia solo una narrazione, un racconto piacevole anche, ma di alzare il livello, appunto, cercando di aprire degli spazi di contemplazione a qualcosa che solitamente non è visibile, quindi avvicinarsi all'invisibile, no? Ecco. Il Furlani e sin fu dal Friuli. È cambiata la scrittura del Friulano allontanandosi dal Friuli? O è la stessa cosa? È cambiata in che senso? Quello che scrivevi quando eri Friuli o se hai cominciato a scrivere restando solo qui? Allora, questa è una bella domanda. Io scrivevo già poesie alle superiori più o meno, però ho iniziato a scrivere poesie veramente, con più convinzione, diciamo, da quando me ne sono andato dal Friuli. E guarda caso, le cose che scrivevano parlavano di un posto dove io non ci stavo più. Quindi il legame era fortissimo, per non usare una rafforzativa ulteriore. Fortissimo. Fortissimo veramente. Poi, venendo in Alto Adige, le possibilità per tornare in Friuli erano ancora minori rispetto al Veneto dove abitavo prima, e quindi la nostalgia era tanta e soprattutto una serie di ritualità, una serie di momenti che per me sono molto importanti, cadenzati dall'anno, durante l'anno, venivano a mancare, e ho sentito veramente forte questa cosa. Però nonostante tutto mi arrangio per quanto riguarda il friulano, nel senso che poi appena ho l'occasione di finire in Friuli compro libri in friulano e poi me li studio, perché non ci capisco niente, o ne capisco solo poco, anche perché sono molte le varietà, no? Il friulano che si può scrivere, al di là di quello del Pirona e via dicendo. Però è un lavoro che faccio proprio di ritorno alle radici, proprio attraverso il lavoro sulla lingua, no? Un lavoro attraverso per le radici, proprio per ritrovarsi. Così vecchio era un friulano orientale, però adesso non mi ricordo più da dove viene. Io vengo dalla provincia di Gorizia, però è l'ultimo paese della provincia di Gorizia sul confine con quella di Udine. Ecco, che è un paesino che si chiama Villesse. E scrivi esclusivamente nel linguaggio di Villesse o c'è qualcos'altro? Perché io sentivo... No. E questa è stata la cosa bella. La cosa bella è stata che poi negli anni, soprattutto negli anni che ero via dal Friuli, tutte le volte che incontravo friulani che non erano del mio paese, ero molto curioso di come parlavano friulano e le parole che mi piacevano, tipo Tarcento nelle calze si dicono chi ha il jus, no? Mi piaceva un casino la musicalità di quelle parole, allora, ogni volta che trovavo qualcosa che aveva un buon suono, un bel significato, una cosa, lo appuntavo su di un'agenda e poi lo riciclavo, lo riutilizzavo per scrivere le mie cose, insomma, ecco. Sì, non è un friulano, difatti. Sono contento perché è un friulano mio, mi permetto di dire che non è né della A né la E, eccetera, è contaminato, pieno di contaminazioni, del nord, della Carnia fino alla bassa, mescolato. Ti direi che le mie emozioni sono molto forti. Grazie. Io sono nato in Friuli, sono stato in giro un po' per tanti anni per l'Italia, sono arrivato a Bolzano nel 1939, quindi in Friuli sono tornato solo alcuni anni nella mia età giovanile, così, quindi sentire il friulano, sentire le blave, sentire il morar, sentire il chianti, voi, tutta, sì, dicevo, il grano turco, il gelso, gli occhi, il cielo, i colors, tutte le tue poesie, veramente mi emoziono in fuart. E io credo che proprio le smesli dris, le mie radici sono rimaste ancora lì, almeno la parte principale, poi piccole ramificazioni sono andate altrove. E io spero di poter lei un po', purtroppo sono diventato così non vedente, ma pian piano chissà riuscirò anche a farmi leggere un po' delle tue poesie. Volentieri. Che sono un po' legate un po' tutto sommato alla vita, alla natura, ai campi, all'agricoltura, ma forse anche alla pittura, al tuo amico, ai dolori che hai avuto, alla tua vita, a Gorizia, forse anche chissà quali traversie hai avuto da quelle parti. E quindi complimenti, ti ringrazio, sono emozioni forti, spero che tu possa continuare ancora a dare altre poesie di tipo magari diverso, forse di taglio anche più moderno, come potrebbe essere il Friuli delle macchine, della tecnologia, della situazione così più moderna. C'è in preparazione un'altra cosa, arriverà un'altra cosa fra poco. Poco. Comunque volevo dire una cosa, intanto grazie a tutti. In un'immagine sola, le cose che avete sentite stasera, io sono stato anche in Africa fra le tante cose e ho visto il cielo, che non ho visto in nessuna parte del mondo, mi sembrava di essere a 20 metri e avere il cielo sopra. Quando io mi fermo a raccontarvi le mie cose, sono delle fotografie, sono dei grandangoli, no? Mi piace fotografare con le parole, vi direi, ecco, questo è un po' il lavoro che c'è dietro, no? Un lavoro di fotografia molto accurata, che racconta le tradizioni, ma non solo, racconta molto della natura, perché sono cresciuto in un paesino di campagna e sono molto contento di questo, e eccetera, ecco, se no parliamo troppo qua dopo. Grazie a tutti, grazie di essere venuti, veramente molto contento di vedervi tutti, grazie.